Questa sessione pomeridiana del nostro convegno e l'apre il professor Ignazio Anderegen. Il professor Ignazio Anderegen è dottore in filosofia e in teologia, laureato presso la Pontificia Università Gregoriana ed è professore docente nella facoltà di teologia e di filosofia della medesima università. È impegnato come professore di metafisica e teologia nella facoltà di lettere e di diritto dell'Università Cattolica Argentina. È membro della Pontificia Accademia San Tommaso e ha pubblicato diverse opere, tra cui la Metafisica de Santo Tomás e l'Exposición sobre el De Divinis Omni Nominibus de Dionisio Areopagita, nell'89. Introduzione alla teologia di Tomás de Aquino nel 1992, Hegel e il cattolicismo nel 1995, la psicologia ante la grazia nel 97 con la riedizione del 99, sacerdozio e pienezza di vita, teologia e spiritualità sacerdotale nel Concilio Vaticano II e in San Tommaso d'Aquino, questa edita nel Roma nel 2003, e la traduzione spagnola della medesima opera, Sacerdozio e plenitud de vida, Buenos Aires 2004, premiata nell'esposizione del libro cattolico del 2005. Poi teoria del conoscimento morale, Lecciones de gnoseologia, sempre Buenos Aires 2006. Ecco perciò il curriculum abbondante anche del professore e adesso ascoltiamo la sua parola. La mia conferenza riguarda le radici filosofiche del pensiero di Karl Rahner, con speciale attenzione a quelle di stampo idealistico, specialmente Heidegger e soprattutto Hegel. Il percorso, per le ragioni che spiegherò, comincerà da Heidegger e finirà da Hegel. È un percorso in qualche maniera in senso inverso, a ritroso nella storia, e di questo bisognerà rendere conto. Per organizzare questa esposizione io l'ho divisa in quattro parti. Prima presenterò brevemente il senso di queste quattro parti, poi le svilupperò e finalmente trarremo delle conclusioni, delle osservazioni fatte durante lo svolgimento. Per quanto riguarda il metodo dell'esposizione, procederò soprattutto a partire dai testi di Rahner stesso, in diverse epoche della sua produzione. E devo premettere che si nota in Rahner un'evoluzione notevole, un'evoluzione importante che non può essere capita adeguatamente senza l'intervento di una considerazione spirituale e non solamente filosofica, perché dietro le ragioni filosofiche del pensiero e dell'influsso ampio di Karl Rahner ci sono delle radici spirituali che bisogna considerare adeguatamente perché in un altro modo non si coglie il senso della sua stessa produzione teologico-filosofica. Le quattro parti alle quali alludevo sono quelle che seguono, cioè in primo luogo i fondamenti del pensiero di Rahner, specialmente nelle prime opere e soprattutto in Uditori della parola, che ha un carattere spiccatamente filosofico. In secondo luogo faremo riferimento alla concezione filosofica e teologica sviluppata come si presenta nel corso fondamentale sulla fede, che è l'ultima grande opera di Rahner, che in qualche modo sintetizza il suo pensiero e che è stata salutata da Johann Baptist Metz come l'unica somma teologica del nostro tempo. Passeremo poi all'applicazione di questi principi filosofici a uno dei temi centrali della teologia di Rahner, che è stato già sviluppato da padre Cavalcoli, dunque il tema dei cristiani anonimi, il significato della fede. Cercherò di non ripetere, ma di vedere la connessione con i principi filosofici. Riguardo a questo è da considerare anche il tema della redenzione, che per Rahner è autoredenzione. E qui troveremo un collegamento molto diretto con la concezione hegeliana del riferimento a sé. E finalmente dovremo arrivare alla concezione spirituale, che è molto importante e che ha degli sviluppi ulteriori, cronologicamente parlando, al corso sulla fede. Dunque, negli ultimi articoli di Rahner si trovano delle considerazioni che potremmo chiamare spirituali, a condizione di capirle adeguatamente a partire dal sottofondo filosofico. Per quanto riguarda le opere filosofiche con le quali ci dovremo confrontare, sono fondamentalmente tre, dunque Essere tempo di Heidegger, La fenomenologia dello spirito di Hegel e La scienza della logica dello stesso Hegel. Ci sarebbero da fare anche dei riferimenti a Kant, perché soprattutto nel vocabolario Rahner prende molto da Kant, specialmente per quanto riguarda l'opposizione, mediazione tra trascendentale e categoriale. Tuttavia, bisogna affermare che già questi due concetti non sono presi da Rahner nel senso strettamente kantiano, perché in Kant le categorie sono a priori e dunque sono trascendentali, trascendono la fisicità, trascendono la sensibilità, eccetera. Ma questo che fa Rahner con Kant lo fa con gli altri autori. Dunque lui prende il vocabolario, in certo qual modo anche i concetti, i sistemi filosofici, e li trasforma. Trasforma meno Hegel e Heidegger di quanto faccia con Kant e con San Tommaso, soprattutto quando cita San Tommaso stravolge palesemente il senso delle affermazioni di San Tommaso. Lo vedremo subito a proposito della redizio completa, dunque questo tornare in se stesso e l'interpretazione che dà Rahner. Passiamo dunque adesso alla considerazione di alcuni testi, in primo luogo in Uditori della Parola troviamo un capitolo il cui titolo manifesta già tutta una concezione. Capitolo quinto, l'uomo come spirito. Dunque l'uomo è spirito. Questo è fondamentale, perché se poi si parlerà di svolta antropologica, bisogna in primo luogo sapere che cosa si intende per antropologia. Se l'uomo è spirito, la concezione dell'uomo è diversa già in partenza da quella tradizionale, anzi da quella assunta dal Magistero, specialmente dal Concilio V del Laterano. E vedremo, a proposito di questo concilio, una affermazione stranissima di Rahner nella fine della sua vita, che manifesta una continuità importante dal punto di vista filosofico. L'uomo spirito che in qualche maniera si rapporta con un corpo, ma qui c'è tutto un problema nell'allontanarsi dalla concezione ilemorfica. Voi sapete, l'uomo non è né anima né corpo, dice San Tommaso, è un tertium quid, perché l'uomo è la persona, non è lo spirito, lo sappiamo. Il vocabolario che troviamo in Uditori della Parola, che dipende immediatamente da Heidegger, permarrà lungo tutto il percorso della produzione filosofica e teologica di Rahner. E dico filosofica e teologica perché nel corso fondamentale sulla fede lui esplicitamente dice che non bisogna curare questa distinzione tra filosofia e teologia, non bisogna preoccuparsi di questo, e proprio per l'influsso soprattutto di Hegel, come vedremo in seguito. Il vocabolario permane. In certo qual modo si deve dire che l'evoluzione filosofica è meno spiccata, meno notevole di quella spirituale. Infatti, se contemporaneamente a queste osservazioni filosofiche di Uditori della Parola analizziamo le opere pubblicate in campo strettamente teologico, osserveremo che Rahner ha delle affermazioni in questa epoca che sono in grande misura ortodosse o che sono in grande misura corrispondenti alla tradizione e anche alla spiritualità cattolica. Dunque ci sono lungo i testi di Rahner delle analisi che sono interessanti. Tuttavia, se consideriamo dal punto di vista spirituale anche queste analisi, troveremo un'inclinazione marcata verso le realtà naturali e in certo qual modo un naturalismo che era sempre presente. Cioè, soprattutto considerando che Rahner era un religioso, troviamo un interesse molto marcato per le realtà secolari che non sempre è controbilanciato con un interesse direttamente spirituale. Dunque, l'evoluzione filosofica è meno spiccata di quella spirituale. Vediamo quanto dice Rahner, alcuni esempi, in Uditori della Parola, l'uomo come spirito. Qui il linguaggio è profondamente heideggeriano. Si vede che Rahner era sotto l'influsso potente di Heidegger, sotto l'impressione sicuramente della lettura di Sein und Zeit. specialmente c'è un interesse per manifestare il senso dell'essere. Molti tomisti si sono in qualche modo innamorati di questa distinzione di Heidegger tra essere ed ente e hanno cercato di fare in qualche modo una trascrizione del linguaggio di Heidegger in termini tomisti, quasi a dire che San Tommaso aveva detto prima quello che Heidegger ha manifestato filosoficamente nella nostra epoca. I tomisti però hanno conservato il senso tomista. Invece Rahner spesse volte ha cambiato questo senso e si vede nel testo. C'è poi un riferimento all'esistenza, che certo non si trova così in San Tommaso e che viene direttamente da Heidegger. Dunque l'esistenza specialmente umana nella quale si manifesta l'essere. L'uomo, ricordate, è il pastore dell'essere, quello in cui affiora il senso dell'essere. In questo problema, dice Rahner, si indaga l'essere in genere. Ora, questo problema va considerato, oltre che nel suo significato contenutistico, anche nella necessità con cui si afferma nell'esistenza umana. Perciò una sua analisi è sempre nello stesso tempo un'analisi dell'esistenza che lo pone. Dunque l'essere inseparabile dall'uomo, in cui compare l'essere. Certo, qui siamo già in partenza lontani dalla metafisica classica. In Aristotele la metafisica è la scienza divina, e la scienza divina è quella che Dio ha, che poi l'uomo riceve. E questo è assunto dalla tradizione cristiana molto più profondamente, perché da noi si tratta non soltanto di ricevere la scienza divina come si può nell'ordine naturale, ma di ricevere la rivelazione della vita interna di Dio. Dunque, la scienza dell'essere riguarda in primo luogo l'essere divino, ma partecipatamente riguarda il riflesso dell'essere divino nel creato che è scoperto dall'uomo, subordinato in qualche modo a questo essere. In Heidegger invece la metafisica è essenzialmente scienza dell'essere dell'uomo insieme. Dunque dell'essere e dell'esistente o dell'esistenza insieme. Dice, seguendo Heidegger, Rahner, dobbiamo partire ancora una volta dal problema generale della metafisica. Che cos'è l'essere dell'ente in quanto tale e in generale? Questo problema, come si è detto più volte, si pone necessariamente nell'esistenza concreta dell'uomo. Questo lo scrive Rahner nel 1937 e questo principio rimarrà immutato lungo tutta la produzione filosofica e teologica di Rahner. Dice ancora, l'uomo vive in un mondo di enti che considera suoi oggetti. È un'affermazione importante che poi si svilupperà in senso idealistico. Non solo sente e vive il suo ambiente, ma lo giudica, costituendolo così per la prima volta in quanto mondo. È l'uomo che costituisce il mondo giudicando. Qui le risonanze rimandano piuttosto a Kant. Certo, in Heidegger ci sono degli influssi hegeliani, come vedremo, ma anche kantiani. Dice ancora Rahner, l'uomo nel suo esodo percettivo verso le cose ritorna da soggetto così completamente su se stesso in quanto diverso dagli oggetti del mondo percepiti nel suo esodo, da prendere coscienza di se stesso come soggetto contrapposto e distinto dalle conosciute. In tal modo la sua esperienza sensibile diventa conoscenza oggettiva nel pensiero. San Tommaso chiama questo ritorno su se stesso come soggetto confrontato e distinto dall'oggetto percepito attraverso i sensi, la reditio completa subiecti in se ipsum, la soggettività, e vede in esso il carattere che distingue lo spirito da tutto ciò che gli è inferiore. Qui c'è una combinazione maldestra di prospettive filosofiche che realizza Rahner. Da una parte abbiamo l'eredità kantiana, l'intelligenza come attiva, i sensi come passivi, dunque l'intelligenza che in qualche modo si contrappone al mondo, inteso come sensibile, che lo configura, secondo le categorie a priori, nei giudizi di cui parla Rahner qui esplicitamente. Questo sarà sviluppato dopo, in un senso più radicale, da Hegel. Da una parte c'è lo spirito, dall'altra parte c'è la materialità che in Hegel finalmente scompare, come scompare la stessa conoscenza sensibile, in quanto ciò che è conoscenza sensibile in realtà è riconosciuto come il primo passo della razionalità, si vede nella fenomenologia dello spirito. Abbiamo dunque da una parte questa radice idealistica, dall'altra parte San Tommaso, che è citato qui a sproposito, perché San Tommaso nel De Veritate, che è dove sviluppa specialmente questo, anche altrove, parla della conoscenza abituale, che è un'altra cosa. Dunque è la presenza intima della intelligenza a se stessa che non corrisponde alla conoscenza degli oggetti, perché ogni atto intellettuale è immediatamente presente a se stesso, ma questo non può comunque essere scoperto senza conoscere gli oggetti, cioè l'essenza delle cose. Rahner non capisce questa distinzione tra conoscenza abituale e conoscenza attuale, e dunque secondo lui San Tommaso direbbe che addirittura il soggetto si costituisce per questo tornare a se stesso una volta che si è contrapposto intellettualmente con gli oggetti materiali, con gli oggetti del mondo materiale. Questa prospettiva errata dal punto di vista filosofico, non solo parlando della verità delle cose, ma anche dal punto di vista dell'interpretazione dei filosofi, perché se uno sa che cosa dice Kant non lo può mettere insieme a San Tommaso, e se uno sa che cosa dice San Tommaso non lo può mettere insieme a Kant. O non ha capito uno, o non ha capito l'altro, o non ha capito nessuno dei due. Dunque, questo permane lungo tutta la produzione di Rahner, anzi si approfondisce e diventa già discorso non esplicitamente heideggeriano, direi, ma piuttosto esplicitamente hegeliano. E bisognerà rendere ragione di questa inversione di percorso, perché si passa da Heidegger a Hegel e non piuttosto da Hegel a Heidegger, come è l'ordine cronologico. Possiamo anticipare in qualche modo le ragioni, cioè in Heidegger è implicito Hegel, perché anche se Heidegger cambia il vocabolario hegeliano, lo fa diventare heideggeriano, tuttavia alla base c'è Hegel. Anzi, lo stesso anno che Rahner pubblica questo libro, 1937, E Heidegger faceva un corso su Hegel, famoso, sulla fenomenologia dello spirito di Hegel, e lì si vede come nella profondità di Heidegger c'è Hegel. E si vede anche nei temi tipici di Heidegger, come il nulla, come questo apparire dell'essere nel nulla, eccetera, e lo ritroveremo in Rahner, anche verso la fine della sua vita. In Uditori della parola abbiamo l'anticipazione di un altro tema fondamentale della teologia filosofica, per così dire, di Rahner, che è quello della libertà. Questo tema della libertà unisce Heidegger, Hegel, Kant e Rahner. Piuttosto, l'uomo è libertà. Dunque, quando in questo capitolo Rahner parla dell'uomo come spirito, si sta riferendo soprattutto alla libertà. L'uomo è libertà. Ieri il padre ci ha ricordato che l'enciclica Veritatis Splendor si riferisce in qualche modo a Rahner e tocca proprio questo punto della libertà. Il nocciolo di queste concezioni teologiche, morali, moderne, sta qui, nella libertà. E l'enciclica fa notare come l'uomo addirittura sarebbe la libertà che si autorealizza. Certo, l'espressione più forte di questo pensiero la troviamo in Hegel. L'idea assoluta è la libertà. L'idea assoluta è il metodo che abbraccia tutta la realtà e lo abbraccia come idea libera, come idea che si autorealizza nella libertà in quanto libertà, e ciò per lui significa nella negazione. Il negativo è il motore della dialettica. Non c'è libertà senza negazione, che in Hegel vuol dire senza contrapposizione. Senza contrapposizione ad ogni realtà data, da quella sensibile a quella divina. Questo lo ritroviamo lungo tutto il percorso del pensiero di Rahner. Vediamo ancora un altro passo tipicamente kantiano ancora in questa tappa del pensiero di Rahner. La conoscenza di una cosa, dice, in quanto rientra in questo o in quel determinato tipo, non è altro che la percezione di una realtà con cui il pensiero e l'azione sono in rapporto sotto un concetto universale. I dati fornitici in ultima analisi dalla conoscenza sensitiva vengono elaborati in concetti. Proprio perché il conoscente attraverso i concetti conosce qualcosa di qualcosa, gli può rapportare il suo concetto universale ad un singolo a cui si può applicare. Questa applicazione è infatti l'applicazione delle categorie ai dati della sensibilità. Dall'altro canto del processo conoscitivo, in Rahner troviamo anche la spiegazione kantiana, in qualche maniera, della astrazione, perché l'astrazione sarebbe una specie di estraibilità dell'essenza della singola realtà presentataci dai sensi in cui esiste concretamente. Si chiede qual è la condizione trascendentale che permette al soggetto di conoscere questa illimitatezza dell'essenza, benché la si colga come propria di un determinato individuo e rende possibile tale processo, tale condizione bisogna stabilire a priori e in partenza nel soggetto conoscente perché egli possa compiere l'astrazione e avere le singole conoscenze. Certo, lui tende verso questa posizione, dunque l'astrazione è un processo che si compie da un lato dall'intelletto solo, dall'altro lato dal materiale che non possiede in se stesso una forma. Dice ancora Rahner, in senso kantiano, la conoscenza coglie quindi il suo singolo oggetto in una percezione previa dell'essere che comprende nella sua assoluta vastità tutti gli oggetti possibili e in ogni conoscenza particolare trascende sempre il singolo oggetto. Dunque abbiamo rilevato alcuni punti importanti che servono per comprendere meglio lo sviluppo ulteriore del pensiero di Rahner dal punto di vista degli influssi filosofici. Passiamo adesso direttamente al corso fondamentale sulla fede, la concezione filosofica e teologica, e troviamo qui. Siamo partiti in qualche modo da Heidegger, adesso ci troviamo direttamente di fronte a Hegel. Siamo all'inizio del corso fondamentale. Si tratta di un'introduzione al concetto di cristianesimo. Perciò noi presupponiamo in un primo momento l'esistenza di questo nostro cristianesimo personale nella sua normale figura ecclesiale e cerchiamo in terzo luogo di ridurlo a un concetto. Dobbiamo sottolineare questa espressione, ridurre il cristianesimo a un concetto. Le risonanze hegeliane sono evidenti, ma non c'è bisogno che noi ci affatichiamo a ritrovare le risonanze hegeliane perché immediatamente dice Rahner in questa introduzione che è in qualche modo programmatica di tutto il libro. Abbiamo aggiunto il termine concetto per indicare che qui, tanto per parlare con Hegel, si tratta della fatica del concetto. Chi cerca in partenza solo l'emozione religiosa e rifugge la fatica della riflessione paziente, faticosa e noiosa, non deve perciò affrontare questa ricerca e questo tentativo. Dunque, lui indica che questo libro è noioso. È vero, ma secondo lui questo è un merito, perché si tratta della fatica del concetto. Questo vuol dire che, usando termini classici di San Tommaso e di San Bonaventura, qui non c'è conoscenza affettiva. Anzi, questa conoscenza affettiva è vista in senso negativo. La conoscenza per connaturalità con i misteri divini, la conoscenza, anzi, che proviene dalla carità, che è fonte di conoscenza ultima nel dono della sapienza dello Spirito Santo, questo è assolutamente fuori. Questa prospettiva è immediatamente hegeliana. Infatti lui si ispira all'inizio della fenomenologia dello spirito di Hegel, che è dove si trova questa espressione, bisogna lavorare, prendere questo lavoro del concetto, questa fatica del concetto, che è qualcosa che la gente volgare non vuole fare. La gente volgare saremmo tutti noi che non vogliamo affaticarci in questa maniera del pensare dialettico. Dunque, siamo persone che in fondo ci muoviamo attraverso la sensibilità. In questo senso Hegel rifiuta piuttosto i protestanti, soprattutto Schleiermacher, dunque, anzi, in un certo qual modo, come vedremo, Hegel accetta di più i cattolici che i protestanti da questo punto di vista, perché i cattolici hanno un pensiero, ma i cattolici di quella epoca, dunque i cattolici medievali, i padri della Chiesa, secondo Hegel, hanno pensato la fede, invece questi protestanti hanno sviluppato i sentimenti. Ma dietro Hegel c'è Kant, specialmente in questo punto, perché secondo Kant il fatto che l'uomo abbia una sensibilità è il suo peccato originale. Dunque il male radicale, come spiega nella religione entro i limiti della pura ragione, è questo, che l'uomo ha una sensibilità, e se ha una sensibilità ha delle tendenze sensibili, e questo è semplicemente il male. Non siamo soltanto ragione a priori, ma abbiamo delle tendenze sensibili. Il problema è che Kant assolutamente non può concepire un tipo di felicità che non sia semplicemente quella dei sensi. Dunque, essendo questi sensi inferiori alla ragione, colui che cerca la felicità è un immorale. Perciò bisogna agire secondo l'imperativo categorico, che lascia da parte ogni motivazione sensibile. Purtroppo Rahner qui sottostà a questa concezione, dunque avere una conoscenza affettiva di Dio in qualche modo sarebbe una cosa inferiore. Ma trattandosi di un gesuita, questa è una cosa grave, perché come voi sapete i gesuiti hanno questo culto del Sacro Cuore di Gesù e hanno il discernimento degli spiriti. E il discernimento degli spiriti proprio significa questo, vedere dove portano questi movimenti interni che abbiamo, il che presuppone che questi movimenti non sono semplicemente appartenenti all'appetito sensitivo, irascibile o concupiscibile che sia, ma che si tratta di una affettività spirituale, dunque, come direbbe San Tommaso, una volontà per partecipazione. Voluntas per participatione, questa è la ultima ragione per la quale questi movimenti hanno un senso spirituale e non semplicemente sensitivo, e possono essere assunti anche dalla grazia. Ma dice Rahner all'inizio di questa somma teologica, come direbbe Metz, questo bisogna lasciarlo da parte. Possiamo confrontare con la fenomenologia dello spirito di Hegel. Dice lui, la figura autentica in cui la verità può esistere è soltanto il sistema scientifico della verità stessa. Ancora, la necessità interiore che il sapere sia scienza risiede nella sua natura, e l'unica illustrazione soddisfacente al riguardo e l'esposizione della filosofia stessa. E ancora, la vera figura della verità è dunque posta nella scientificità, e ciò equivale a dire che la verità trova l'elemento della propria esistenza solo nel concetto. Certamente si tratta del concetto hegeliano, e il concetto hegeliano abbraccia tutta la realtà. Invece, il bello, il sacro, l'eterno, la religione, l'amore diventano adesso l'esca più idonea per suscitare la voglia di abboccare, non il concetto, ma l'estasi, non la fredda e progressiva necessità della cosa, ma l'ardente entusiasmo deve costituire l'atteggiamento in grado di sostenere e diffondere la ricchezza della sostanza. Qui sta criticando la teologia protestante del tempo e la teologia cattolica anteriore, perché dice da questa immaginazione spirituale proviene tutto un mondo di dogmi, di santi, eccetera, eccetera. Bene, per Hegel la verità sta nel concetto. Rahner ci dice: dobbiamo fare una teologia che riduca il cristianesimo a concetto, come dice Hegel. Ma accanto a Hegel permane ancora il ricordo di Heidegger che le ha trasmesso Hegel. In quello scritto che ho citato di Heidegger, lui sottolinea molto specialmente che Hegel mette come sottotitolo della fenomenologia dello spirito la scienza della esperienza della coscienza. Dunque, è vero, si tratta di ridurre tutto a un concetto, però questo si riesce a fare attraverso un'esperienza. Quale esperienza? Non senz'altro quell'esperienza affettiva di cui parlavamo. È un'altra esperienza. Infatti la fenomenologia dello spirito è un'esperienza, è in qualche modo una scienza sperimentale, non nel senso delle scienze fisiche, chimiche, eccetera, che Hegel non voleva molto bene, ma nel senso di una trasformazione spirituale. Lo spirito deve apparire in noi, secondo Hegel. E questo lo riprende Heidegger, perché infatti in Heidegger si tratta di riproporre in un modo più pratico, se si vuole, questo che Hegel ha fatto più teoricamente. Gli echi li troviamo in Rahner. Continua ancora, all'inizio del corso, la introduzione è per forza di cose un esperimento. Non si sa in anticipo se l'esperimento, anche soltanto in qualche misura, riuscirà o potrà riuscire, poiché ciò dipende anche dal lettore di queste pagine. Per chi è e vuole essere cristiano, un tema del genere non riguarda singole questioni teologiche molto difficili, perché c'è lo spirito dietro. Come dice piuttosto Hegel che Rahner. In pratica, che cosa significa? Questo significa quello che significava già in Hegel, cioè che la metafisica, quella vecchia, non serve più. Questo è elementare. C'era già in Kant. In Hegel c'è lo stesso di Kant, però con una variazione molto importante. Secondo Kant, la metafisica, così come si è fatta sempre, non serve più e bisogna fare una nuova metafisica che è la critica della ragion pura. Questa, dice lui, nel prologo alla prima edizione, è l'unica che permarrà per sempre. La metafisica già fatta, di una volta per tutte, è la critica della ragion pura. Poi mancano alcuni dettagli, però è già fatta. Invece, Hegel dice, ma tutta la metafisica di tutta la storia deve rientrare nella nuova metafisica. Perché è vero che ci sono dei cadaveri che lo sviluppo della storia ha lasciato dietro di sé, dice Hegel, ma c'è uno spirito dietro che è comparso lungo tutta questa trasformazione storica. Rahner dipende in questo da Hegel e secondo la situazione odierna vuole assimilare ogni genere di conoscenza scientifica nella teologia. E per questo naturalmente prende tutte le scienze, specialmente le scienze umane, così come si sviluppano nella nostra epoca, senza nessun discernimento metafisico o teologico, perché proprio di questo si tratta, di fondare una nuova teologia secondo queste scienze, così come di fatto si danno nella situazione odierna. Dice Rahner: la teologia, se di fatto sbriciolata in innumerevoli discipline, ognuna delle quali offre un materiale enorme, con una metodologia molto differenziata e difficile, mentre mantiene contatti straordinariamente ridotti con altre discipline teologiche affine o vicine, eccetera. Un secondo punto di vista a proposito della situazione generale risulta da un pluralismo simile esistente nella filosofia odierna. La filosofia scolare, neoscolastica, così come noi teologi più anziani abbiamo bene o male studiato un 40 anni fa, non esiste più. Oggi la filosofia si è dissolta in un pluralismo di filosofie. E anche tale pluralismo ineliminabile e insuperabile delle filosofie è oggi un dato di fatto che non possiamo disattendere. Ora, qualsiasi teologia è naturalmente anche una teologia delle antropologie e delle autointerpretazioni profane dell'uomo, che in quanto tali confluiscono almeno in parte, se non del tutto, in queste filosofie esplicite. Di conseguenza risulta anche qui inevitabilmente un enorme pluralismo delle teologie. Perché? Perché le teologie devono essere molte, perché sono molte già le filosofie. Anzi, dice in seguito, non sono molte soltanto le filosofie, ma le scienze umane sono molte. Essendo Rahner kantiano, la metafisica è andata via, dunque queste filosofie in fondo non si distinguono dalle altre scienze umane cosiddette, ad esempio la psicoanalisi freudiana, oppure la sociologia, marxista o meno che sia, eccetera. Dunque ormai bisogna fare tante teologie quante filosofie ci sono e anche quante scienze umane ci sono. E di fatto, dopo Rahner, altri hanno fatto questo. Ad esempio, Treverman ha fatto una teologia morale freudiana. In questa teologia morale freudiana, naturalmente, i principi sono invertiti riguardo alla teologia anteriore. Dunque, va bene l'aborto, il divorzio, l'eutanasia, altre cose simili. Dunque, questo si è fatto in diversi campi. E secondo Rahner questo va bene, perché è la vera immagine della teologia. Voi potete capire che se considerate la prima questione della Somma, dove San Tommaso dice proprio la differenza tra filosofia e teologia, tra altre, sta nel fatto che la teologia è scienza una, invece la filosofia sono diverse scienze. Dunque Rahner dice l'inverso. La teologia è vera teologia perché si è dispersa, come il mondo, che è disperso, che è molteplice. Ma c'è un'unità in tutto questo, e questo Rahner non l'ha mai perso. Dov'è l'unità? È la libertà. Questo permane sempre. E permane sotto l'influsso combinato di tutti gli autori che abbiamo citato. Compare dopo l'altro grande tema a cui abbiamo fatto cenno. C'è il concetto, ma c'è l'esperienza. Infatti l'esperienza trascendentale, dice Rahner. Ritorna al suo antico tema, conoscere e conoscere se stesso. Questa conconoscenza del soggetto conoscente, conconoscenza soggettiva, atematica, presente in ogni atto di conoscenza spirituale, necessaria, ineliminabile, nonché la sua apertura, la sterminata ampiezza di tutta la realtà possibile, viene da noi denominata esperienza trascendentale. Dunque, le cose non sono così semplici come sembrano dall'inizio del testo, ossia non è solo concetto noioso, è un concetto sperimentale. Bisogna entrare in un'esperienza determinata per arrivare al concetto. E appunto il cammino che ha proposto Hegel nella sua fenomenologia dello spirito, che è una profondissima trasformazione spirituale. è più potente di un ritiro spirituale se uno legge la fenomenologia dello spirito. Infatti ci sono stati dei tomisti che sono diventati hegeliani, diversi. Dunque lo spirito che era dietro la fenomenologia e altri libri di Hegel ha vinto quello che c'era in quella conoscenza non del tutto approfondita che avevano questi della filosofia tradizionale. Essa è un'esperienza, perché questa conoscenza di natura atematica ma inevitabile è momento e condizione della possibilità di qualsiasi esperienza concreta in un qualche soggetto. Diciamo che essa è un'esperienza trascendentale, perché fa parte delle strutture necessarie e ineliminabili del soggetto conoscente e perché consiste precisamente nel superamento di un determinato gruppo di possibili oggetti, nel superamento di categorie. E compare subito il tema della libertà. Tale esperienza trascendentale non è limitata alla pura conoscenza, ma si estende anche alla volontà e alla libertà. Anche queste posseggono il medesimo carattere trascendentale. E certamente, secondo l'influsso heideggeriano e hegeliano, prevarrà la libertà sulla conoscenza, perché, come dice Heidegger in Holzwege, dietro il cogito cartesiano c'è un volere, un volo, non è solo cogito, dietro il cogito c'è il volo. E questo è permanente in tutto l'idealismo nel quale si ispira Rahner. Naturalmente scompare la distinzione tra filosofia e teologia, si tratta sempre di entrare in questa esperienza, che è una specie di dubbio che corrode tutto, ogni campo del pensiero, cioè uno è veramente scientifico quando entra in questo dubbio, quando non vuole dare risposte, ma quando fa domande, anzi quante più domande fa, più profondo è. Dunque in questo Rahner ha assimilato profondamente Heidegger e in qualche modo Hegel. Di conseguenza, dice Rahner, ci troviamo di fronte a un caratteristico intreccio di filosofia e di teologia. Le premesse su cui dobbiamo riflettere riguardano l'essere dell'uomo. Esse quindi riguardano qualcosa che è accessibile a quella riflessione teoretica e a quell'autointerpretazione dell'esistenza umana che noi chiamiamo filosofia. E appunto tali premesse sono nel contempo il contenuto di una teologia conforme alla rivelazione. Dunque fare filosofia è allo stesso tempo fare teologia. In questo senz'altro il confronto è diretto con la filosofia della religione di Hegel. E infatti questo libro è un libro di filosofia della religione allo stesso tempo che di teologia e di filosofia generale. Dice ancora, non dobbiamo preoccuparci di distinguere metodologicamente nella maniera più chiara, più pura possibile tra filosofia e teologia in questo saggio, cioè anche la più originaria filosofia dell'esistenza umana, quella che si fonda su se stessa ed è la più trascendentale, viene sempre elaborata solo in seno all'esperienza storica. Dunque, questa esperienza storica include il cristianesimo, vuol dire che ognuno che fa filosofia come Hegel in realtà fa anche teologia, perché se fa una filosofia della storia, che in fondo è l'unica cosa che si può fare, sta facendo filosofia del cristianesimo. E fare filosofia del cristianesimo e fare teologia. Certamente Rahner non coglie qui il senso spirituale, non soltanto della grazia, ma neanche della natura, perché la natura non si identifica con la storia e la storia neanche si identifica con gli avvenimenti esterni, dunque con i fatti in quanto sono accessibili dai sensi. E ci sarebbero ancora da fare diverse considerazioni, ma vogliamo passare al terzo punto brevemente, l'applicazione che fa Rahner di questi presupposti filosofici alla teologia. Tutta la teologia in qualche maniera è concentrata nel tema della grazia, perché la grazia è la partecipazione della vita divina e mediante questa partecipazione noi possiamo conoscere Cristo e mediante Cristo come persona divina conosciamo il Padre, conosciamo lo Spirito Santo. Dunque il tema è centrale. Il fatto che Rahner esplicitamente torni indietro da San Tommaso a Pietro Lombardo, eccetera, dunque la grazia non è una realtà, ma è lo sguardo divino, questo ha un senso determinato che non è semplicemente tornare a una posizione patristica, è un'altra cosa, vuol dire concepire la grazia come esplicitamente la concepisce ad esempio Hegel. Per Hegel la grazia è la vita spirituale dell'umanità, lo dice esplicitamente nella filosofia della religione. Dunque il fatto che ci sia una qualsiasi spiritualità, un po' al modo come oggi la gente concepisce la spiritualità, spiritualità vuol dire non essere materialisti, e non essere materialisti è già essere religiosi o avere la grazia o essere cristiani, eccetera. Dunque troviamo questi saggi che sono già ulteriori, quello delle osservazioni sul problema del cristiano anonimo, ci sarebbero tante cose da dire, ma il punto che voglio sottolineare qui è quello della identificazione tra la fede e una specie di conoscenza intellettuale sperimentale, che sarebbe una specie di essere nel mondo con consapevolezza. Dunque, in fondo, colui che ha fede è quello che è veramente installato in questo mondo, così come questo mondo si sta sviluppando oggi e adesso, specialmente nell'ambito della cultura come oggi si concepisce, con i suoi presupposti filosofici. E questo lo porta a identificare il pagano con un cristiano anonimo, ma qui bisogna aver presente che quando Rahner parla di pagano non sta pensando a quei pochi che ancora ad esempio in Africa o in altri continenti non sono stati raggiunti dal messaggio cristiano, e nemmeno sta pensando ai milioni di asiatici che magari hanno sentito Gesù come parola ma non sanno bene di che cosa si tratta. Lui sta pensando agli atei occidentali, da tutto il contesto, cioè gli atei occidentali sono persone che magari sono state battezzate ma poi non credono più. Dunque bisogna essere molto attenti dal punto di vista realistico per interpretare bene il pensiero di Rahner. Dunque non si tratta semplicemente di una persona che incolpevolmente non conosce il Vangelo. E il pagano dice, dopo l'inizio della missione cristiana, il quale vive nello stato di grazia di Cristo in fede, speranza e carità, ma non sa nulla esplicitamente del rapporto che la sua esistenza soprannaturalmente giustificata ha verso Gesù Cristo. Dunque, questo pagano, che eventualmente può essere anche ateo, è soprannaturalmente giustificato. Perché? Perché è inserito bene nella storia. Perché lui assume il pensiero contemporaneo come un'esperienza, cioè come un'accettazione di sé, dice Rahner. Questa accettazione di sé, che è seguire la coscienza, è essere autoredento. Autoredento. E questo, senz'altro, è la riconciliazione hegeliana, non è altro che questo. Dunque lo spirito si riconcilia con se stesso quando lascia da parte tutte le mediazioni in quanto sono fisse. E questo vuol dire le idee fisse, vuol dire le sensazioni fisse, vuol dire i contesti storici fissi, eccetera, eccetera. È un'esperienza spirituale che è una specie di processo che non si interrompe mai, che è sempre più analitico, che taglia sempre di più, che divide sempre di più nel fondo. E questo naturalmente produce l'angoscia. Infatti troveremo subito dei saggi spirituali, in qualche modo spirituali di Rana, in cui dice: ma noi siamo scoraggiati, non siamo nel buio, non possiamo uscire da questo buio, ma questo per lui sembra bene, perché questo vuol dire essere profondi. Riguardo ancora a questa applicazione dei principi filosofici, vorrei sottolineare un punto che di fatto è molto importante, anche se non si vede immediatamente la connessione con i principi filosofici, cioè l'interpretazione che lui fa del Vaticano II. Secondo lui, il Vaticano II ammetterebbe o direbbe che gli atei sono salvi. Come fa lui? Lui prende la Lumen Gentium, tra parentesi, nella Lumen Gentium c'è il criterio di interpretazione, perché la Lumen Gentium si riferisce alla questione 8 della terza parte della Somma, dove San Tommaso parla degli ebrei o di altri che, come fanno questi prima di Cristo per salvarsi? Non si salvano senza la grazia. E per questo Dio dà loro la grazia e in qualche modo, assieme alla grazia, dà un modo di percepire umanamente il significato della grazia. Questo vuol dire San Tommaso. Dunque, non possiamo entrare in questo punto, il Vaticano II presuppone questo. E quando dice che tutti si possono salvare, come bisogna intenderlo? Secondo il senso ovvio, tutti si possono salvare, ma non vuol dire che tutti si salvano quelli che ricevono la grazia, e la grazia dipende sempre da Dio, radicalmente, non dagli uomini. Ma secondo Rahner, il Vaticano II direbbe che gli atei si salvano, tranne che facciano un atto speciale contro la loro coscienza. Qui sono supposti diversi errori, adesso non entriamo. Prima di tutto l'identificazione della grazia con la libertà, che è il centro dell'autoredenzione. Questo porta a Rahner a delle conseguenze molto gravi, lasciamo da parte questo saggio, in cui afferma ad esempio che questa grazia sempre insita nella natura e nella storia dell'uomo è conosciuta nel modo di quella conoscenza che si ha nel caso degli oggetti formali a priori, eccetera. Dunque la grazia si identifica in qualche modo con la natura, questo sta già trattato, ma arriviamo alle conseguenze. Quando l'uomo accetta liberamente se stesso con questa conoscenza a priori, che è già rivelazione, abbiamo quel che si può chiamare fede. È testuale di Rahner. Tale conoscenza a priori dell'uomo, detta rivelazione, è sempre accolta nella fede, ovunque un individuo accetta liberamente se stesso. In una fedeltà incondizionata alla propria coscienza morale, ovunque e quando si accetta così come è, quindi anche con le implicazioni non ancora trasparenti della dinamica del suo movimento spirituale. Tradotto, questo vuol dire che qualsiasi uomo, quando accetta se stesso, con i suoi peccati, dunque con i suoi mali, lì è autorredento e ha fede. E quanto più conosce e dunque accetta se stesso, più ha fede. Questo che cosa vuol dire? Che ha più fede uno che si è psicoanalizzato freudianamente durante 10 anni che un religioso che sta a pregare. Questo è nella pratica vuol dire. E infatti è molto notevole che verso la fine della produzione di Runner compaiono degli accenni non a filosofi come Kant, Heidegger, Hegel, ma alla psicoanalisi, cioè a Freud. Questo è molto importante, perché in concreto, dunque sperimentalmente, secondo questa nuova esperienza che bisogna raggiungere, questo confluisce in Freud, il quale vuole che ci accettiamo a noi stessi con i limiti, con tutto quello che sappiamo nella psicoanalisi. Secondo Runner tutto questo va attribuito al Vaticano II. Questa è un'operazione molto grave, e perché? Perché l'hanno creduto milioni di cristiani, cioè che il Vaticano II direbbe che gli atei si salvano. La teoria del cristianesimo anonimo dice dunque, senza essere legata a tale terminologia, che al di fuori del cristianesimo, fin nelle file degli atei, esistono uomini che sono giustificati dalla grazia di Cristo, di Dio, e posseggono lo Spirito Santo. E questo lui lo attribuisce al Concilio Vaticano II. Questo è grave perché tutti credono che il Vaticano II dica lo stesso di Runner, e poi perché fa capire il Vaticano II in contrapposizione agli altri concili e in contrapposizione alla tradizione. Dunque colui che ha in profondità questa esperienza spirituale se ne rende conto che la Chiesa è dialettica, che tutto va nel senso di questa dispersione, di questo dubbio, di questa esperienza nuova, e questo include specialmente il Concilio Vaticano II. Dunque, possiamo passare ad una conseguenza che si trova in un saggio ulteriore sulla concezione cristiana della redenzione. E qui troviamo una conseguenza morale molto grave e diretta. Qui Runner dice come la teoria classica della grazia in fondo va a dire che ci deve essere il limbo, ma non essendo possibile che ci sia il limbo, e avendo il Concilio V del Laterano affermato che l'anima è immortale, cosa dobbiamo fare? Vediamo la risposta di Runner. Secondo me, su tale questione non siamo in grado di dire alcunché. Questa questione è la salvezza dei bambini non ancora, cioè morti quando non ancora erano nati né battezzati. Dunque, secondo me tale questione non siamo in grado di dire alcunché. La rivelazione reale tace al riguardo. La riflessione teologica finisce inevitabilmente sempre in vincoli ciechi. In linea di principio, ma soprattutto qui, non abbiamo bisogno di romperci la testa su simili casi marginali, soltanto che poi questi casi marginali diventano centrali. Tanto più che, secondo il mio parere, può rimanere una questione aperta se la proposizione di fede del Concilio Lateranense V circa l'immortalità dell'anima abbracci necessariamente anche, come tradizionalmente si pensa, le persone spirituali che non sono mai passate attraverso una storia della libertà. Dunque, questi non c'è in fondo approfondire teologicamente il tema della grazia, in che cosa finisce? Ma in fondo dobbiamo dubitare che questi bambini non nati abbiano l'anima spirituale. Dato che se concepiamo la grazia come sempre l'ha accettata la Chiesa, si va a finire nella teoria del limbo e che questa teoria non si può accettare, che cosa bisogna fare? E bisogna mettere in dubbio che questi bambini abbiano un'anima immortale. Perché? Perché la grazia è la libertà e questi bambini non hanno uso della libertà, e se non hanno uso della libertà dunque non hanno grazia, ma questo non si può dire perché secondo Rahner in fondo siamo tutti in questo esistenziale soprannaturale che non è puntuale, dunque non abbraccia ogni singolo uomo, è una questione storica. L'unico modo è eliminare l'anima immortale dei bambini. Questo è del 1981. Sì. Che? Sì, fine della sua vita. Ma poi nell'83 le cose sono più cupe. Perché qui scrive un saggio dal titolo suggestivo, cioè sulla pazienza intellettuale con se stessi. Dunque sembrerebbe che non ci sopportiamo e ad un certo punto dobbiamo avere pazienza con noi stessi. Ma qui compaiono dei punti molto interessanti dal punto di vista spirituale, perché certo questa cosa, come aveva già detto nel 76, nel corso sulla fede, è noiosa, ma non è solo noiosa, perché qui sembra che faccia affiorare dell'angoscia, ma questo l'aveva scoperto Heidegger prima di lui, solo che lui in quel momento non se n'era reso conto. Dunque, questa concezione dell'essere e dell'ente, eccetera, è non disciunta dall'angoscia, perché è in questa angoscia dove compare l'essere. E Heidegger, che era intelligente, l'aveva capito bene. Ma sembra che Rahner tira le conseguenze soprattutto verso la fine della sua vita e qui compare il fondo spirituale. Cosa dobbiamo fare? Essere pazienti vuol dire riconoscere che non sappiamo tutto e che ogni proposizione può essere contraria ad un'altra e accettare questo. Accettare questo ci porta ad una esperienza ulteriore. Lo troviamo in Heidegger, ma lo troviamo radicalmente in Hegel, anche la fenomenologia dello spirito dice questo, no? Gli illuministi sono superficiali, dice Hegel. Chi sono gli illuministi? La gente normale che crede di avere un intelletto col quale ha capito cose determinate. Dopo che ha passato una certa esperienza, va oltre il principio di non contraddizione e diventa hegeliano, o diventa saggio, o diventa il sapere assoluto, possiamo dire. Dunque, ha passato un'esperienza. Quella esperienza, nelle lezioni sulla estetica, Hegel le chiama notte dello spirito, Nacht des Geistes, dunque notte dello spirito. Sappiamo che della notte dello spirito ha parlato San Giovanni della Croce, e infatti qui compare la notte oscura. In Rahner fa riferimento a questa notte oscura. Dunque, dopo tutto questo sviluppo trascendentale, si va a finire in una specie di notte oscura. Che fa il teologo o l'uomo di oggi? L'uomo odierno non sa solo come affermare e prolungare in qualche modo la sua vita biologica, non coltiva solo il ricordo del passato del mito, nella saga e forse in un po' di storia, non fa solo con fatica e magari con molti insuccessi un po' di metafisica, infatti questo è quello che di meno si fa, non pratica semplicemente la religione, ne balbetta solo in molte lingue del divino. Oggi egli coltiva le scienze, studia sistematicamente la natura, nella psicologia e nella psicoanalisi, mette a nudo i propri risvolti interiori. Ultimamente ha acquisito settori tutto nuovi nel campo del sapere, come ad esempio le scienze sociali. Abbiamo già visto, tutto questo deve entrare nella teologia, ma qui va al di là e dice questo produce un'esperienza spirituale. Infatti, a confronto della quantità di sapere disponibile nel nostro tempo, oggi il singolo diventa sempre più ignorante. Una volta si conosceva relativamente poco, ma il singolo poteva conoscere quasi tutto questo poco. Oggi sappiamo molto di più, ma ognuno conosce solo una minuscola parte di tale sapere, eccetera. Tutto questo produce un'esperienza. Uno può anche sperimentare in una maniera prima impossibile il divario tra ciò che sa e ciò che oggi si può sapere. Questa nescenza che precede coscienza, che prende coscienza di sé, se questa nescenza che prende coscienza di sé possa essere detta una dotta ignoranzia, è cosa di cui si può discutere. In ogni caso, tale nescenza rappresenta un grande dolore e ci umilia. Sintetizzando, qui, per parlare con Sant'Ignazio, compare la tentazione sotto la specie di bene. Dunque, di fronte a tutto questo sapere che ci eccede, colui che ha rinunciato al vero sapere, che è la teologia, come scienza una, dunque la partecipazione della scienza divina, cade in una situazione di ignoranza e identifica questa ignoranza con il non sapere di cui parlavano i mistici, Dionigi Laureo Pagita, eccetera, eccetera. E dunque l'umiliazione sarebbe questa, ma non è più l'umiliazione di fronte alla scienza divina, è l'umiliazione di fronte alla scienza umana. Dice ancora, stiamo per finire, se nel porci questa domanda avessimo troppo facilmente una buona coscienza, sarebbe proprio il caso di chiederci se abbiamo aperto realmente le porte al dolore per la nostra nascenza, oggi più che mai impostaci, o se non ci permettiamo indebitamente di essere soddisfatti nella miseria del nostro sapere, soddisfatti di una soddisfazione che non ci è lecita. Tradotto, questo vuol dire, se noi permaniamo nel sapere, ad esempio teologico, filosofico, come era prima, noi non siamo veramente umili. Essere umili vuol dire essere sottomessi a questo sapere del mondo che ci supera. Anzitutto, tale pazienza è imparentata con quella reale docta ignorantia di cui i filosofi parlano da lontano e che i mistici dell'Oriente e dell'Occidente cercano di raggiungere. Dunque identifica questa sottomissione al sapere mondano di oggi con la mistica. Se sperimentiamo che attorno alla piccolissima isola del nostro sapere si estende il mare infinito di un mistero senza nome, e se facciamo questa esperienza in maniera più chiara, appunto mediante l'esperienza di cui abbiamo parlato finora, allora tale duplice esperienza nella sua unità può forse raccomandarci e suscitare in noi il coraggio incredibile che hanno i santi e i mistici della profonda concentrazione in se stessi. Essi non sentono, cioè, questo mare del mistero santo, limitante la piccola isola del loro sapere come un limite coartante. Hanno il coraggio di uscire su questo mare, non temono che la sua silente immensità l'inghiotta, si affidano a questo ignoto conosciuto come al mistero che li salva beatamente. Hanno il coraggio di tuffarsi nel vuoto della loro coscienza. Tuffarsi nel vuoto della loro coscienza. Questo farebbero i mistici. In realtà è quello che fanno i hegeliani e i heideggeriani. Nel nulla delle conoscenze singole, tutte scomparse, sperimentano la verità autentica e totale, che non può più essere sminuzzata in una quantità di singole proposizioni. Dunque, questo che cosa è? Non è altro di quello che aveva detto Hegel nella scienza dell'esperienza della coscienza, cioè nella fenomenologia dello spirito. Bisogna che scompaiano tutte le conoscenze determinate perché noi entriamo in questo turbine che in realtà non corrisponde alla mistica cristiana occidentale e orientale, come dice Rahner, ma corrisponde piuttosto a quello che era fonte segreta di Hegel, cioè Jacob Böhme, quel mistico protestante torbido del XVII secolo. Continua Rahner: qui non possiamo soffermarci ulteriormente su questo mistero ineffabile che trasforma il dolore della nostra nascenza e della nostra ignoranza nella beatitudine della luce e appare alla coscienza quotidiana come una notte oscura. Dunque, lui trasforma la notte oscura di San Giovanni della Croce in questo essere inghiottiti dal mondo, dunque dalla sapienza del mondo, o meglio dallo spirito del mondo, perché è lo spirito nel mondo. Ma qui faccio una considerazione sintetica finale. Qual è l'analogato principale di tutti questi filosofi come Hegel e in qualche modo Heidegger e anche Kant e a suo modo Rahner? Dunque, come abbiamo cominciato a dire, l'uomo è spirito, ma se l'uomo è spirito poi viene sopraffatto da altro spirito più grande. Loro concepiscono l'uomo come una specie di spirito che possiede un corpo. Questo è il problema. E noi sappiamo che gli spiriti che possiedono corpi normalmente non sono buoni.